Abbiamo scelto di manifestare in 5 città d'Italia insieme alla FENEAL UIL perché dalla sera alla mattina questo governo decide di fare un decreto che sostanzialmente mette a rischio migliaia di imprese, più di 100.000 lavoratori di cui 10.000 in Emilia Romagna, e dà un colpo all'ambiente sostanzialmente senza precedenti, perché vede l'eliminazione della cessione dei crediti e dello sconto in fattura è un'operazione inaccettabile perché guarda ad una stretta cerchia della popolazione e quindi i redditi più bassi, i ceti meno abbienti da questo punto di vista, lavoratori pensionati, lavoratori precari, perché naturalmente non avranno le condizioni di poter anticipare ovviamente tutti quei soldi, e quindi in questa maniera diventerà solo ed esclusivamente un'operazione che potranno fare i ricchi. Dopodiché c'è tutto il tema da questo punto di vista anche rispetto alle direttive europee, alle direttive dell'ONU, che naturalmente insomma ci impongono alcune questioni che noi non solo sosteniamo ma che proviamo, come dire, a rivendicare già da qualche anno, perché la rigenerazione urbana dei nostri edifici, che sono tra, come dire, i più vetusti, quelli che sono i più energivori, sono quelli che inquinano e che emanano CO2 per il 40% sostanzialmente di inquinamento. Viene meno anche un tema ambientale e così si rischia naturalmente, come dire, di non avere i soldi del PNRR. Per queste ragioni ovviamente noi proviamo a scendere in piazza, perché diciamo che questo decreto va cambiato, si sta discutendo in Parlamento ma attraverso degli emendamenti dell'opposizione, ma vedremo naturalmente quello che succederà. Il sindacato le proposte le ha. Abbiamo un problema, che questo governo ha deciso dal primo giorno in cui si è insediato di non interloquire con le parti sociali, perché appunto questo è stato un decreto fatto dalla sera alla mattina senza parlare né con le associazioni sindacali né con le associazioni datoriali da questo punto di vista né con nessuno. Noi diciamo che il decreto va riscritto in maniera corretta, un decreto che guardi alle fasce più deboli della popolazione, inserendo un ISEE che sia intorno ai 30.000 euro per dare la possibilità naturalmente a questa gente qui, che, come dire, è il grosso della nostra popolazione, di poter rigenerare i propri edifici e quindi efficientare, così come prevede anche poi la direttiva europea attraverso l'aumento di 2 classi energetiche, da questo punto di vista efficientare le proprie abitazioni. Entrerà in vigore anche la riforma del codice degli appalti. Cosa comporterà in termini di lavoro nel settore dell'edilizia, nello specifico la liberalizzazione dei subappalti a cascata che è prevista, certo, dal nuovo codice? È una riforma sostanzialmente completamente sbagliata, che ci fa ritornare, come dire, 30 anni indietro, perché la liberalizzazione del subappalto cosiddetto a cascata, e cioè non ci sarà limiti per subappaltare il lavoro, e quando la catena si allunga dei subappalti, noi sappiamo benissimo, soprattutto anche in Emilia Romagna, perché è già successo, che vengono meno i diritti dei lavoratori, viene meno la sicurezza sul lavoro, perché naturalmente si andrà, no, di volta in volta che c'è un appalto, a risparmiare, quindi quei costi vengono risparmiati, come dicevo, appunto sui diritti dei lavoratori, sulla sicurezza del lavoro. C'è il tema che con questo nuovo codice degli appalti le infiltrazioni mafiose da questo punto di vista avranno terreno facile, quindi, come dire, una norma assolutamente da respingere, e anche per questo, come dire, saremo in piazza. Nel settore edile c'è un aggravante maggiore, perché, ripeto e torno a dire, più si allunga la catena e naturalmente meno si possono effettuare controlli da parte delle organizzazioni sindacali. Io voglio ricordare che ogni anno muoiono nei nostri cantieri più di 400 edili, sostanzialmente, che molti non sono infortuni sul lavoro, ma che, come dire, denotano assenze di norme di legge, assenze di protezione di sicurezza e tutto quello che naturalmente prevede la legge. Ecco, noi pensiamo che questo vada combattuto e per questo saremo in piazza. Ecco, ora allargando un attimo il tiro dal nazionale all'europeo, visto che lei ha parlato di direttive europee, ecco, l'Europarlamento ha recentemente approvato la direttiva Case Green proprio sull'efficientamento energetico degli edifici. Certo. Crede che l'approvazione del decreto 11/2023 renderebbe difficile rispettare questa direttiva europea? Beh, è evidente, diciamo così, non è che lo credo io. Come dire, se non viene viene modificato da questo punto di vista, non ci saranno le condizioni per arrivare non solo alle case green, ma come dire a mettere in campo una rigenerazione a partire dalle periferie, da questo punto di vista, a partire dai condomini, a partire dalle case popolari, mettendo in campo un'edilizia popolare da questo punto di vista, non tralasciando anche naturalmente le zone residenziali. Ovviamente quello è legato anche al fatto che appunto si va verso una direzione che i nuovi acquisti di casa dovranno avere sostanzialmente quelle caratteristiche. È chiaro che se il governo non interviene noi siamo fuori sostanzialmente da quella discussione. Ecco, quindi questi sono i rischi del decreto, del codice, e anche spiegato quali sono le rivendicazioni della piazza. Ma a proposito di piazze, da dove arriva la scelta di manifestare in queste città e soprattutto nei quartieri poi specifici, certo, in cui si svolgeranno le manifestazioni? Sì. Guardi, abbiamo scelto, è stato scelto a livello nazionale da questo punto di vista, di scegliere 5 proprio periferie da dove ripartire per la rigenerazione urbana. 5 periferie dove appunto ci sono molti immobili che hanno quelle caratteristiche che dicevo prima, costruiti prima degli anni 70, da questo punto di vista molto energivori e soprattutto consumatori di CO2, per dare una ripartenza proprio da quelle zone, cioè proprio da quelle periferie che più di tutti hanno bisogno di appunto mettere in campo questa nuova rigenerazione urbana da questo punto di vista, quindi anche dando un segnale chiaro da dove noi vogliamo partire affinché il nuovo decreto dia delle risposte. Certo, e queste 5 città, giusto per ricordarlo ai nostri ascoltatori, sì, saranno? Le 5 città sono nelle 2 isole, sono Palermo e Cagliari. Per il sud ci sarà Napoli, per il centro ci sarà Roma e per il nord ci sarà Torino. L'Emilia Romagna, noi andremo a Roma e saremo più di 500 persone, quindi come dire con un'adesione importante verso la manifestazione di sabato.